Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Un cordiale saluto a tutti i radioascoltatori da parte di Diego Manetti. Un ben ritrovati sulle frequenze di Radio Maria per il consueto appuntamento del primo sabato di ogni mese con questo incontro, questa conversazione che intende mettere a tema un argomento tanto spesso passato sotto silenzio, il tema della vita eterna. Tante volte abbiamo detto, cari amici, come ci sia una sorta di censura che copre quelli che un tempo la dottrina della Chiesa Cattolica indicava come i novissimi, le cose ultime, la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. Parlo di una sorta di censura perché la morte sembra quasi passare sotto silenzio nella società di oggi, che ha sempre più bisogno di celebrare la vita, celebrare la salute, la positività, il successo, la visibilità. E tutto questo in una concezione della vita che, non sapendo più dare una spiegazione alla morte, la mette come tra parentesi. Mi capita sempre più spesso di vedere come è difficile tenere anziani nelle famiglie, spesso non solo perché non si riesce a provvedere, ma perché a volte mi sento dire, sai, per i bambini è meglio, almeno non vedono che la nonna poco a poco invecchia e si avvicina al momento della morte. E sovente anche i bambini non si sa dire di che cosa si tratta, che cosa può essere questa esperienza così drammatica che viene passata sotto silenzio e che poi però a un certo punto irrompe imprevista, ovviamente indesiderata, nella vita dei piccoli o dei grandi. Allora questa sera ho voluto proprio mettere a tema, nello specifico, quello che ci permette di guardare alla morte con uno sguardo che non è quello del mondo, e ci permette di parlare della morte, ma di farlo con una speranza che solo nella resurrezione di Cristo può trovare il suo fondamento. Vi aspetta la vita eterna è uno stralcio di un messaggio che la Regina della Pace ha dato a Medjugorje il 25 maggio 2019. Lo leggo integralmente. Cari figli, per la sua misericordia Dio mi ha permesso di essere con voi, di istruirvi e di guidarvi verso il cammino della conversione. Figlioli, tutti voi siete chiamati a pregare con tutto il cuore, perché si realizzi il piano della salvezza per voi e tramite voi. Siate coscienti, figlioli, che la vita è breve e vi aspetta la vita eterna, secondo i vostri meriti. Ecco, cari amici, un messaggio molto breve, ma davvero essenziale per capire perché la Madonna appare da così tanto tempo, così frequentemente, a Medjugorje e attraverso gli spostamenti dei veggenti in tutto il mondo. Possiamo dire che quelle di Medjugorje sono apparizioni che rappresentano un unicum, non soltanto per la durata, abbiamo detto più volte che le apparizioni a Notre-Dame-de-Lhôte sono più ampie, durano 64 anni, ma le collochiamo nella seconda metà del 600, inizio 700. Ma la frequenza, l'abbondanza dei messaggi e soprattutto il fatto di non essere più legate a un solo luogo, bensì ai veggenti, rende le apparizioni di Medjugorje qualcosa di straordinario. Il modo in cui se ne parla, ovviamente in questa sede, da parte mia e generalmente, è quello di chi non intende in nessun modo anticipare il giudizio della Chiesa, che ancora non si è espressa in modo definitivo sulla soprannaturalità di queste apparizioni, perché è ancora in corso, limitandosi, se vogliamo dire così, ma non è un limitarsi, a riconoscere la bontà dei frutti spirituali attraverso Monsignor Hoser in più occasioni e poi la possibilità di effettuare pellegrinaggi ufficiali. Lo disse Monsignor Hoser stesso nel dicembre del 2017, lo ha ribadito il 12 maggio 2019 lo stesso Papa Francesco. Allora, sia pure nei termini di una testimonianza umana, desidero proporre alcuni dei messaggi più significativi sulla vita eterna, perché la Madonna dice proprio di essere qui per questo motivo, per istruirci e guidarci verso il cammino della conversione, e ci ammonisce: dobbiamo essere coscienti che la vita è breve e ci aspetta la vita eterna. Ecco, già questa è un po' la sintesi della pedagogia mariana che cercherò di illustrare per punti, offrendo poi alcuni frammenti di messaggi. La vita è breve significa ricordare ai figli la verità delle cose. Una buona mamma non tiene nascosto nulla di quello che deve far sapere e conoscere ai propri figli. La vita è breve, È un'illusione poter vivere per sempre. Anche quando la scienza potesse allungare la vita media dell'uomo, non si vive più di un tempo. Mi fanno a volte tenerezza anche gli studenti quando, spiegando storia, e dico la vita media nel Medioevo era di 35 anni. Prof, ma allora morivano tutti a 35-40 anni? Ma no, è che c'era una tale mortalità infantile che facendo la media, evidentemente la vita media era molto più bassa. Ma gli uomini arrivavano più o meno alla vita di oggi. Basta un esempio, ecco, un po' forse semplice, no? Ma fuori contesto scientifico, si può citare il Salmo quando dice che gli anni dell'uomo, no, sono 70-80 per i più robusti. I salmi risalgono 1000 anni prima di Cristo, 3000 anni fa. Quindi 3000 anni fa l'uomo viveva già, come oggi, tranquillamente fino a 70-80 anni. Eppure la Madonna dice la vita è breve. Io lo intenderei in due modi. Da una parte dire che forse è breve rispetto a quanto vorremmo viverle noi la vita, vorremmo vivere molto più a lungo, e poi è breve rispetto alla vita eterna, cioè alla vita vera. Allora questo senso di spaesamento che si potrebbe provare pensando la vita è breve, e viene subito bilanciato dalla bella notizia che la Madonna ci dà: vi aspetta la vita eterna. Quindi essere consapevoli della brevità della vita non è semplicemente dire mi tocca, non so, trangugiare il bicchiere mezzo vuoto, ma c'è un bicchiere bello pieno che è quello della vita eterna. Allora possiamo vedere, no, la prima parte di questo insegnamento. La vita umana è breve, tante volte la Regina della Pace ci ha ricordato che siamo pellegrini sulla terra e le cose ci possono dare piccole gioie, mentre dice, ad esempio nel 2007, attraverso mio figlio vi è donata la vita eterna. Ecco, allora la vita breve, terrena, non può che donare gioie piccole, mentre Gesù, con la vita eterna, dona la gioia senza fine. Ancora ci esorta a non rinunciare alla salvezza e alla vita eterna a causa della caducità e della vanità di questa vita. Quante volte ci troviamo a seguire cose vane e a rinunciare a quello che è il nostro destino, quello eterno. Più volte ha ribadito la Madonna con tante espressioni, anche visive, figurative, per colpire bene la nostra attenzione quanto sia breve la nostra vita. Ha detto la vita è passeggera, la vostra vita è solo un battito in confronto alla vita eterna, l'ha paragonata a un battito, no? Un battito d'ali, a un battito del cuore, ma potremmo anche dire un fiorellino di primavera. E sempre però ha esortato a quell'apertura del cuore che va oltre questa brevità. Anelate all'eternità, preparate i vostri cuori nella preghiera. Ecco, diciamo che sapere che la vita è breve deve accompagnarsi a una risposta attiva già in questa vita. E ad esempio il 25 aprile 2016, quando dice figlioli la vita è breve, approfittate di questo tempo per fare il bene. Voglio ripeterlo, la vita è breve da due punti di vista. Da una parte dico in senso assoluto, perché per quanto si possa vivere 70-80 anni non basta mai. A volte, no, fa tenerezza vedere la persona anziana che ci tiene a rimarcare, no, la sua relativa giovinezza, quando magari dici no, ma quella persona lì ha 80 anni e senti che con rimprovero, no, dice ma come, ne ho solo 79, solo 79, sono tanti, ma è come dire ci tengo a viverli uno dopo l'altro, no? E perché? Perché soprattutto chi ha avuto una vita piena, una vita ricca di soddisfazioni, ma certo che vorrebbe vivere sempre. Questa così brevità, questo senso del passaggio della vita, no, che sfugge giorno dopo giorno, sia proprio anche nella porzione più breve della vita che è la giornata stessa. Quante volte viviamo giornate talmente belle che diciamo come vorrei che oggi non finisse mai. Ecco, c'è proprio dentro di noi quel senso di finitezza che porta però a desiderare un oltre che sia eterno. E poi d'altra parte la vita è breve anche perché quello che spezza la nostra vita terrena, il nostro cammino, il nostro pellegrinaggio in questa terra è qualcosa di imprevedibile. Non si muore soltanto per vecchiaia, si muore in qualunque momento della propria vita e bisogna esserne consapevoli. Mi è capitato diverse volte di accompagnare alcuni dei miei studenti nei momenti difficili della vita, quando perdono qualche persona cara, un genitore, un fratello, un amico, e di fronte a questo lutto sovente i ragazzi rimangono stupiti, perché dall'adulto ricevono soltanto frasi fatte, formule di circostanza, e tra di loro stessi a volte usano questi modi di parlare che io dico a volte tipici di un cinismo di quarantenne, no? Come dire, coraggio, condoglianze, mi spiace, andiamo avanti. E io dico, no, ma non è possibile, ma intanto paragonati, dico a questi ragazzi, a quello che è successo al tuo compagno, perché potrebbe succedere a te. E quando dico questo, vedo lo sguardo che si spalanca, no? Un po' interdetto, perplesso, quasi che ci fosse il desiderio anzitutto di non volerci pensare, di mettermi a tacere o di fare i soliti gesti scaramantici, no? Come se bastasse un po' di superstizione per allontanare il vero dramma della questione e il vero problema. E a questi ragazzi dico, guarda che essere consapevoli della brevità della propria vita porta a cambiare completamente l'approccio ed è una questione ineludibile. Con i ragazzi di quinta liceo, quando affronto l'esistenzialismo francese, in particolare il pensiero di Jean-Paul Sartre, faccio vedere come per questo autore l'uomo consistesse essenzialmente in un progetto di vita. Dico loro, guardate un po' come l'uomo può essere capace di progettare la propria vita, di plasmarla a immagine dei propri desideri, darsi degli obiettivi, dei traguardi da conquistare. È anche esaltante pensare che le proprie scelte plasmano, formano la propria vita. E poi dopo un po' dico, però, questi progetti hanno un senso solo se si possono compiere. Perché vedete, se dovessimo iniziare a correre la maratona, che è lunga 42 chilometri e 195 metri, che ci capiti un infortunio dopo un chilometro o dopo 42, se non arriviamo al termine non abbiamo comunque completato la maratona, non cambia nulla. E Sartre, proprio su questa consapevolezza, spiego ai ragazzi, a un certo punto afferma, in realtà la vita non può avere nessun significato, è assurda, perché la morte in qualunque istante può far crollare quel castello di carte che è il tuo progetto, e poiché la nostra vita è un progetto e si misura la sua, direi, significatività in base ai traguardi raggiunti, e se non raggiungi il tuo traguardo più importante non vale a nulla. E di fronte a questa cosa spesso vedo i ragazzi persi, magari anche i più bravi, preoccupati giusto di capire il senso logico da poter trasferire o restituire in un'interrogazione, ma ben pochi che si fanno prendere dall'ansia di dire ma non può essere così. O io rispondo a questa frase o la mia stessa vita quotidiana non ha più nessun significato. Allora li stimolo, li sfido, dico ma scusate, ma se ha ragione Sartre, non capisco perché veniate a scuola, non capisco perché perdiate le ore più belle della vostra adolescenza per studiare, se tanto non serve a nulla, se tanto studiare per andare all'università, per avere un lavoro, per realizzarsi nella vita adulta, in realtà è sempre sottoposta a questa spada di Damocle che è la morte che arriva quando tu non te lo puoi aspettare. Sempre Sartre usa una bella immagine quando dice sovente si è paragonata la morte all'idea di un condannato che aspetta di essere giustiziato e vedi i suoi compagni di prigionia uno dopo l'altro che chi uno chi l'altro muoiono, no? E allora si prepara per fare bella figura sul patibolo, ma improvvisamente arriva una malattia, un'infezione e lo porta alla morte. Cioè, come dire, in realtà non ti puoi preparare. Per cui la brevità della vita non dipende soltanto dal dire vorrei viverne sempre più di quella che mi è data, ma anche da quel sentirla sempre breve perché esposta al rischio di essere troncata improvvisamente. E lo ripeto, dinanzi a un'esperienza di morte di qualcuno noi vicino, la cosa più ragionevole, qui non lo dico pensando a un uomo che ha la fede, non stiamo parlando di cose che valgono per i cristiani, cari amici, parliamo di cose che valgono per gli uomini. Un uomo ragionevole si interroga, non fa finta di nulla, non fa lo struzzo che nasconde la testa sotto la terra, ma si interroga. Quindi la vita umana è breve, cosa facciamo? Ce la godiamo? Facciamo come Lorenzo il Magnifico? Che racconta, no? Elogiava questa bella giovinezza dicendo che tuttavia se ne passa via, no, così in fretta. No, anziché godere la vita stordendosi, distraendosi, ignorando quella che è la realtà delle cose, bisogna chiedersi ma io perché cosa sono fatto? Qual è la verità della mia vita? Ed è bello vedere come la Madonna, no, lo dicevo, mentre da una parte ci dice guardate che, cari figli, la vita è breve, dall'altra io vi ricordo che siete fatti per il paradiso. Sono tantissimi i messaggi che posso così citare, no? Quasi per dare degli spunti, per fare un po' riecheggiare questo insegnamento della Regina della Pace. Non dimenticate, cari figli, che qui sulla terra siete in cammino verso l'eternità e la vostra dimora è in cielo. E ancora, quando pregate siete vicini a Dio ed Egli vi dona il desiderio di eternità. Non dimenticate che siete pellegrini sulla strada verso l'eternità. È bello questo, no? Perché da una parte si dice quella che è la condizione dell'uomo, siamo pellegrini, la vita è breve, quindi il pellegrinaggio avrà termine, però verso l'eternità, quindi verso una meta che è straordinariamente più bella del cammino che si percorre per raggiungerla. E poi dice però pregate perché nella preghiera siete vicini a Dio che vi dona il desiderio di eternità. Eh sì, perché se dovessimo semplicemente camminare come su un piano inclinato, dicendo beh, ma tanto poi dopo la morte non è l'ultima parola. No, però bisogna avere un desiderio. Un desiderio perché sappiamo bene che l'eternità è o è vita eterna, beata, o è perdizione eterna. Quindi non basta dire, beh, tanto so che c'è un'anima che è immortale, c'è una prosecuzione in una certa forma della vita nell'anima e alla fine dei tempi la resurrezione dei corpi. Sì, ma ancora resta da specificare da che parte. Alcuni corpi risorgeranno per avere il compimento del premio, la visione beatifica di Dio, ma altri corpi per completare quella che è la dannazione, la perdizione eterna, l'autoesclusione di un'anima e quindi della persona dalla comunione con Dio. Allora dobbiamo essere proprio aperti nella preghiera affinché Dio ci doni il desiderio di questa eternità. Ancora, desidero figlioli che ognuno di voi si innamori della vita eterna, che è il vostro futuro, e che tutte le cose terrene siano per voi un aiuto per avvicinarvi a Dio Creatore. Ecco perché le cose terrene ci sono donate, perché la vita terrena è così bella a volte, così piena di gusto, di significato, e si sente veramente il desiderio di vivere. Perché è segno di una vita ben più grande. Queste cose terrene devono essere un aiuto per avvicinarsi a Dio Creatore. Allora, io dico, non è sbagliato amare la vita, no. Ma dobbiamo pensare un po', come diceva Sant'Agostino, che alla fine è sempre questione di amare, l'uomo è fatto per amare, ma a volte si ama in maniera sbagliata. Il peccato, diceva Agostino, non è questione di odio. Lo definiva come una aversio a Deo et conversio ad creaturam, cioè girare le spalle a Dio e voltarsi verso le creature. Non amare Dio in quanto Dio e amare di più, cioè preferire le creature. Allora qui capiamo il monito evangelico di Gesù quando dice che chi non ama di meno il padre, la madre, il fratello, la sorella non è degno di Gesù. Bisogna amare le cose nel senso giusto. Ecco perché anche rispetto alla vita eterna è importante dire io posso amare questa mia vita terrena, però mi devo ricordare che mi è data solo in funzione della vita eterna. Ancora la Madonna ci dice nel 2009, io sono con voi e vi guido verso l'eternità alla quale deve anelare ogni cuore. Ecco, è questo dovere che bisogna precisare, è come un monito ad accogliere quello che la nostra natura esige. Lo ripete ancora, e il 2012, cari figli, aprite il cuore, con gratitudine pregate per tutto il bene che avete e dite, sono creato per l'eternità. Ecco, è questa la consapevolezza che bisogna avere. L'uomo fa fatica ad accettare che il proprio sguardo sul futuro, il proprio fine ultimo, il proprio destino, non siano oggetto assoluto di scelta. Che cosa intendo dire? Che il nostro destino ci precede. E infatti, in un messaggio più recente, il 2 maggio 2019, la Regina della Pace lo ha specificato, il sangue di mio figlio è stato versato per voi per amore, quel sangue prezioso è per la vostra salvezza, per la vita eterna, il Padre Celeste ha creato l'uomo per la felicità eterna, non è possibile che moriate. Voi che conoscete l'amore di mio figlio, voi che lo seguite, la vita ha vinto, mio figlio è vivo. L'amore è ciò che apre le porte del paradiso. Ecco, questo è un messaggio bellissimo, perché ci ricorda per che cosa siamo fatti. Il Padre Celeste ha creato l'uomo per la felicità eterna. Non ha creato i cristiani, ha creato gli uomini. Quali che siano i loro cammini di vita, che solo Dio può conoscere e giudicare fino in fondo, ma l'uomo è stato pensato per l'eternità, è quella che si definisce la volontà salvifica universale di Dio. Prima lettera di Timoteo, capitolo 2, versetto 4, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi e giungano alla conoscenza della verità. Si tratta di capire che la nostra natura esige questa eternità. Ma dove possiamo trovare, cari amici, gli indizi di questa apertura sull'infinito, di questo essere fatti per il paradiso? Ma quando mi trovo a parlare con i ragazzi del liceo, no, dove insegno, o i giovani con cui magari faccio gruppi e momenti di incontro, non posso ovviamente partire dal Vangelo se questi non sono credenti, ma devo arrivare al Vangelo come quella buona notizia che risponde e conferma un desiderio che però nasce in loro al considerare la loro natura umana, la loro esigenza. Allora faccio sempre riferimento a un'esperienza che è un po' il mio cavallo di battaglia sul tema, che sono le grandi dichiarazioni d'amore tra adolescenti innamorati, quando uno dice all'altro «ti amerò per sempre». Ecco, ma da dove sboccia questo per sempre, questo desiderio di senza limite? E quando un adolescente dice per sempre, sa benissimo che non sta dicendo solo per tutta la vita, ma sta andando oltre. Questo desiderio nasce dal fatto che il nostro cuore è fatto per l'eternità, è fatto da Dio e per Dio, e poiché Dio è eterno, è fatto per amare ed essere amato per sempre. E ancora il 2 agosto 2018 la Madonna ricorda a Medjugorje: la vita di ognuno di voi è importante e preziosa, perché è un dono del Padre Celeste per l'eternità. Perciò non dimenticate mai di ringraziarlo. Qual è il valore della mia vita? E che vale per l'eternità? Ma guardate come si ribalta clamorosamente la lettura della vita e come non c'è più la paura di questa morte che improvvisamente può porre termine a questo cammino. Se ha ragione Sartre, l'esistenzialista francese che citavo poc'anzi, per cui la vita vale in base alla quantità di progetti realizzati, è evidente che meno vivi meno vale, e comunque qualunque vita non avrà mai il suo pieno compimento, perché l'ultimo dei tuoi progetti fallirà perché arriverà la morte, e non potrai prevederla, aspettarla. Ma se invece la vita è fatta per l'eternità, se la tua vita merita, guadagna il paradiso, che cosa conta se vivi 5, 20, 80 anni? Non fa differenza. È come se, perdonate la metafora un po' banale, una squadra di calcio dovesse lamentarsi perché per vincere lo scudetto, anziché impiegare 38 giornate, ce ne mette 20, 15 o 10, ma sarebbe assurdo. È come se qualche mio studente si sentisse promettere il 10 di filosofia a fine anno dopo una sola interrogazione e venisse a lamentarsi. Ma quando mai? O se qualcuno ricevesse lo stipendio del mese di lavoro dopo appena una settimana, ma non si lamenterebbe mai. E perché ci lamentiamo, se questa vita che vale solo in funzione dell'eternità è meno lunga di quello che siamo tentati di desiderare? Ora, è perché non siamo sempre consapevoli, non siamo sempre consapevoli che la vita umana è breve, non siamo sempre consapevoli che siamo fatti per il paradiso, che è un destino universale che ci precede. Ecco perché la Madonna è venuta a Medjugorje, per indicare il cammino verso il cielo. Infatti ha detto già il 2 febbraio del 1990, desidero mostrarvi il cammino verso la vita eterna. E qui uno potrebbe dire, chissà quanto sarà arduo il cammino che porta alla vita eterna. Guardate invece con che semplicità lo indica la Madonna. Prendete il rosario e riunite i vostri figli, la vostra famiglia intorno a voi. Questo è il cammino per ottenere la salvezza. Non servono grandi cose. Una famiglia unita nella preghiera è una famiglia che spalanca il cuore al desiderio della vita eterna. Non servono grandi discorsi, grandi catechesi, è sufficiente quella preghiera, poiché la Chiesa rispetta sempre il motto della lex credendi, lex orandi, per cui quello che si prega anche si crede, sentendo parlare di paradiso, eternità, comunione con Dio, anche i più piccoli incominceranno a capire che questa vita non è che un gradino di un percorso di vita che inizia e non finisce mai. Mi piace sempre ricordare il titolo di quel bellissimo libro sulla storia di Chiara Corbella Petrillo, Siamo nati e non moriremo mai più. Noi abbiamo un inizio, ma non avremo mai una fine. L'uomo è sospeso tra ciò che è eterno, cioè Dio, e ciò che sulla terra è caduco, è finito, ha un inizio e una fine. L'uomo ha un inizio, ma non avrà mai una fine. La sua anima è creata in un certo momento della storia, nel primo istante del suo concepimento, ma è immortale. Vivrà poi per sempre, oppure per sempre sarà esclusa dalla comunione con Dio. Per ricordarci che siamo fatti per il paradiso, la Madonna non esita a usare anche parole dure. Siete così ciechi e legati alle cose della terra, ha detto il 25 ottobre 2006. Pensate alla vita terrena. Dio mi ha mandato per guidarvi verso la vita eterna. Ecco che, oltre alla preghiera, anche gli ammonimenti di Maria sono una tappa di questo cammino verso il paradiso. E ancora nel 2008, cari figli, nella mia venuta a voi, qui in mezzo a voi, si riflette la grandezza di Dio e si apre la strada con Dio verso la felicità eterna. E ancora nel 2009, sono con voi per insegnarvi e guidarvi verso l'eternità. Ora, Maria indica sempre l'eternità. Perché? Perché indica sempre suo figlio è l'eternità e la vita eterna, ma poi è lei stessa segno di questa vita eterna. Perché, a volte mi chiedono, è sempre la Madonna che appare e non invece Gesù? Beh, anche Gesù appare, se pensiamo a Santa Faustina Kowalska, quante apparizioni ha avuto di Gesù, però è la Madonna che di preferenza appare, da una parte perché riesce più facilmente ad accostarsi agli uomini e a dare loro messaggi per l'umanità e per la storia di ogni momento, visto che è proprio mediatrice di grazia tra gli uomini e Gesù. È unico mediatore di redenzione e di salvezza per l'umanità. Dall'altra parte perché la Madonna si mostra viva, oggi, come 2000 anni fa, e lei è il segno della vita eterna, e lei è il segno che c'è la resurrezione. La Chiesa la chiama primizia della resurrezione, è la prima dei risorti. Non ha conosciuto la morte, non ha conosciuto quello stato intermedio che conoscono invece le anime che attendono ancora la resurrezione dei corpi. La Madonna, assunta in cielo, in anima e corpo, è la prima dei risorti, e da questo punto di vista è lei stessa il segno vivo che la vita eterna c'è. Quando Ivanka ha visto la Madonna, una delle prime domande che ha posto è stata proprio: dov'è mia madre? E sua mamma era morta da un paio di mesi, e quindi era normale che, vedendo la Madonna, avesse subito questa apertura all'eterno, all'escatologico, al metafisico, perché quando ci muore qualcuno che c'è caro, la nostra ragione deve riconoscere che il cuore desidera andare oltre quello che i nostri occhi, i nostri sensi sembrano misurare tutto intorno a noi. Se la vita è racchiusa tra due piccole parentesi che sono la nascita e la morte, tutto l'amore che proviamo per i nostri cari sembra davvero un investimento assurdo. E poi è importante anche il fatto che la Madonna ci guida verso il cielo, ma lo fa con i pastori. Nel 2012 è stata molto chiara, molto bello. Cari figli, sono con voi e non mi arrendo. Desidero i miei figli con me nella vita eterna. Desidero che proviate la gioia della pace e che abbiate la salvezza eterna. Pregate per coloro che mio figlio ha scelto, perché vi guidino sulla via verso la salvezza. E qui la preghiera è quella per i pastori. Ci sono più di 100 messaggi rivolti ai pastori, non c'è mai una indicazione di quelli che sono i difetti dei parroci. Ecco, quello è lo sport che siamo bravissimi noi, cari amici, a praticare. La Madonna non fa così. La Madonna non condanna, non giudica, non critica, ma esorta sempre alla preghiera noi per i nostri pastori. La prospettiva è quella della vittoria. Mi viene in mente il messaggio del 2 ottobre 2010, quando dice: pregate per i vostri pastori, con loro trionferò. Ma questo trionfo è anche il fatto che i pastori sono le guide che portano il popolo di Dio alla vita eterna. Ecco perché dice: pregate per quelli che mio figlio ha scelto, perché la vocazione è un dono di Dio, perché vi guidino sulla via verso la salvezza. E anche qui, cari amici, è importante proprio ricordare allora qual è il compito specifico del sacerdote. Certo, il sacerdote può fare tante, tante cose che riguardano anche la vita sociale, la vita economica, la vita politica, si è pienamente uomini e proprio per essere pienamente sacerdoti, ma anzitutto sono i compiti specifici del sacerdozio ministeriale quello che devono essere svolti da coloro che sono consacrati in modo speciale dalla Chiesa. E quindi quando penso ai sacerdoti che saranno ponti di salvezza e che quindi ci permetteranno di attraversare il tempo dei segreti e porteranno l'umanità verso quel mondo nuovo della pace che poi aspetterà la fine dei tempi e il compimento della lotta escatologica, beh, mi viene da pensare che questo ponte di salvezza ha dei piloni ben precisi, li ricordo spesso, ma amo ripetere queste cose che a volte dimentichiamo. Il sacerdote anzitutto ha il compito di confermarci nella verità, illuminandoci con la parola di Dio, ha il compito di assolverci dai peccati, ma quanto è importante, cari amici, quando siamo dinanzi alla morte, anzitutto poter ricevere i sacramenti, anzitutto poter confessare le nostre colpe. Quante volte vedo persone che hanno la grazia di potersi preparare perché sono nella malattia e si trovano dinanzi, attorno, parenti impauriti che dicono no, no, non chiamate il prete, sennò poi si spaventano. Ma come? Hai qualcuno che può donarti quella unzione degli infermi, che lo dice la parola stessa, si dà ai malati, non si dà a chi è già morto. Quello è proprio il caso estremo, ma è fatta e pensata per i malati, perché abbiano forza fisica, ma anzitutto spirituale, per affrontare quella battaglia. Non aveva ragione Epicuro, cari amici, filosofo dell'età ellenistica, che diceva, in fondo la morte non è da temere. Se c'è la morte non ci sei tu, quindi non senti nulla, e se ci sei tu vuol dire che non sei morto. Ma cari amici, questo è un gioco di parole, questa è una fuga, non è un risolvere il problema della morte, perché della morte non temiamo anzitutto il dolore, della morte temiamo il fatto che è una vertigine, è l'apertura di un qualcosa di talmente inaudito che abbiamo anche solo paura a immaginarcelo, ci sentiamo smarriti dinanzi a questo grande mistero. Questa è la vera paura, pensare di non sapere cosa c'è oltre quella porta che si apre sull'eterno, che si apre sull'infinito. E a volte siamo duri ad accettare questa prospettiva, ecco perché la Madonna dice io sono con voi e non mi arrendo, insiste, ci vuole con lei nella vita eterna e ci chiede di pregare per questi pastori. Oltre ad assolvere dai peccati, illuminarci con la parola di Dio, restano poi i compiti decisivi anche di comunicarci il pane di vita che è l'Eucarestia e di liberarci dal male con le preghiere di liberazione e di esorcismo. Ancora nel settembre del 2014 sono in modo particolare accanto ai vostri pastori, dice la Regina della Pace, perché mio figlio li ha chiamati a guidarvi sulla via verso l'eternità. Le sue stesse venute sono una indicazione della via verso la vita eterna, verso il cielo, verso la salvezza, e ancora ribadisce nel Natale del 2018, sono qui con voi per proteggervi e guidarvi verso l'eternità. Verrebbe da chiedersi perché la Madonna è così accalorata quando ci ammonisce nel seguire i suoi richiami materni e ci dice io voglio guidarvi alla vita eterna, ma non basterebbe quasi quasi indicare la via per il paradiso che poi è la croce? Non basterebbe indicare suo figlio? Perché vuole camminare accanto a noi? Beh, perché anzitutto la Madonna ha seguito lungo la via dolorosa suo figlio in primis, fino ai piedi della croce, e così vuole seguire ognuno di noi lungo il cammino della sua vita. Noi sappiamo che questa vita è un pellegrinaggio, ma è un pellegrinaggio che sale il Monte Calvario, che sale verso la croce. Noi siamo Chiesa, carissimi amici, e come la Chiesa siamo chiamati ad affrontare l'ultima prova, ad affrontare anche noi il Calvario, la croce e la morte come Gesù per partecipare poi della sua resurrezione. Ma ancora è importante ricordare come questo compito di guida derivi alla Madonna da un momento decisivo. È sotto la croce, quando Gesù sta per morire, che la Madonna si sente dire, indicando Gesù, il suo discepolo prediletto, questi è tuo figlio, e a Giovanni dire, questa è tua madre. Ma è chiaro che nel discepolo prediletto, cari amici, c'è la figura di ognuno di noi, come i padri della Chiesa, fin dai primi secoli hanno riconosciuto. Siamo noi quel figlio prediletto che è sotto la croce con Maria. Maria ci è accanto, Maria ha accolto l'invito di Gesù, è diventata madre dell'umanità, e infatti tutti tutti i messaggi si aprono con la stessa espressione: cari figli, siamo tutti suoi figli. C'è un bellissimo messaggio dei primi anni in cui ribadisce proprio che tutti gli uomini sono suoi figli, perché Gesù dalla croce non ha affidato a Maria semplicemente i cristiani, ma tutti gli uomini. Ovviamente poi tutti sono chiamati attraverso il sacramento del battesimo a ricevere quella speciale adozione alla divina figliolanza che ci rende davvero, no, figli di Dio e immagine del Padre, come lo è Gesù, è il compimento della nostra vocazione. Perché indicare l'eternità, indicare il paradiso, indicare Dio? Perché senza Dio non c'è vita eterna. Non c'è futuro, non c'è speranza. Alcuni messaggi sono talmente chiari che basta leggerli quasi senza commentarli. È l'aprile del 97. Cari figli, Dio mi manda tra voi per amore, per aiutarvi a capire che senza Lui non c'è futuro né gioia, ma soprattutto non c'è salvezza eterna. E ancora nel luglio del 2010, senza di Lui, cioè di Gesù, non avete gioia, pace, neanche futuro e vita eterna. E ancora nel novembre del 17, senza Dio non avete né futuro né vita eterna. Ecco, senza Dio, che è l'Eterno per eccellenza, che è il Padre per sempre, non c'è una prospettiva di eternità per la nostra vita, non c'è nulla. I grandi della terra, quelli che hanno accolto gli omaggi di tutti i potenti, quelli che hanno ammassato ricchezze immense, che hanno conquistato stati, imperi, ma poi sono morti disperati se erano senza Dio, mentre chi ha Dio non manca di nulla. A volte mi è capitato di assistere nei momenti decisivi della vita, nel momento dell'ultima agonia, persone molto semplici, anziane o anche più giovani, che sapevano di aver compiuto la loro vita come un costante e umile sì a Gesù ogni giorno. Persone di condizione sociale e economica molto bassa, ma che morivano come se avessero conquistato il più grande tesoro, che era proprio quella comunione, quell'amicizia con Gesù, che rendeva ancora più bello il paradiso. E allora a questo punto dobbiamo chiederci come andare in paradiso. Beh, il primo passo è ovviamente la conversione. Dice la Madonna nel marzo del 96, cari figli, scegliete la vita, non la morte dell'anima, e che la vostra vita oggi si rinnovi attraverso la conversione che vi condurrà alla vita eterna. È chiaro che questo cambiamento richiede una potenza grande che scenda nel profondo di noi per cambiarci. Allora la Madonna nel maggio del 98 a Međugorje ha detto, figlioli, permettete allo Spirito Santo di guidarvi sulla strada della verità e della salvezza verso la vita eterna. Posso convertirmi, posso cambiare in profondità il mio cuore se lascio che sia lo Spirito Santo a guidarmi e a trasformarmi. E ovviamente questo richiede che sia la Madonna a guidarci lungo la strada che porta alla vita eterna, ricordandoci: senza mio figlio non c'è salvezza. E questo è un messaggio del 2002, è passato poco tempo da quando la congregazione, con la firma di Ratzinger, ha pubblicato la Dominus Iesu, che incentra, ecco, tutto lo scritto sulla verità più importante per il cristiano. È stato dato al mondo, all'umanità, un solo Redentore e Salvatore, che è Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Allora, ricordare la centralità di Gesù, unitamente all'accompagnamento di Maria, con la potenza dello Spirito Santo, con l'opera della conversione, è un incamminarsi verso il paradiso. Però poi ricordandoci del ruolo di Maria, che nel 2011 ci ricorda: avvicinatevi ancora di più al mio cuore immacolato, perché possa guidare tutti verso l'eternità. E poi ancora: tutto ciò che attorno a voi, figlioli, vi guida verso le cose terrene, ma voi siate sempre più vicini a mio figlio. Ecco, la vicinanza al cuore immacolato di Maria, la vicinanza a Gesù Cristo, sapienza incarnata, sono le condizioni fondamentali per riuscire a camminare concretamente verso il cielo e verso il paradiso. E questo cammino non è un cammino semplice, certo, ci sono sofferenze, ci sono cadute, dolori imprevisti, ma anche questi sono tappe verso il cielo. E il 2 settembre 2016, quando la Madonna dice, nulla è casuale, né il dolore, né la gioia, né la sofferenza, né l'amore sono tutte grazie che mio figlio vi dona e vi conducono alla vita eterna. Certo, la gioia, l'amore sono grazie, ma il dolore, la sofferenza, sì, anche queste sono grazie. Anche quell'esperienza di malattia, anche quel lutto, quella separazione che non avresti voluto affrontare, sono grazie se offerte per la purificazione della propria anima e per poter giungere in paradiso. La strada è quella di una vita capace di offrire anche il dolore perché ama. È solo nell'amore che il dolore acquista un senso. E allora ecco come, soprattutto nei tempi più recenti, dal 2017 in avanti, la Madonna ha insistito sull'amore. Apostoli miei, amatevi sempre gli uni gli altri, soprattutto amate mio figlio. Quella è l'unica via verso la salvezza, verso la vita eterna. Ancora, apostoli del mio amore, pregate col cuore e mostrate con le opere l'amore di mio figlio. E poi, come madre vi dico, solo l'amore veritiero guida alla felicità eterna. Ecco, è importante. Da una parte c'è l'invito ad amare, amarci tra di noi, ma amare Gesù, perché quella è la via alla vita eterna, e non è sufficiente un generico amore per l'altro, è amando Dio che ci si salva. E poi un amore concreto, quando ci esorta a mostrare con le opere quello che è l'amore di suo figlio. Gesù è stato molto concreto nel suo amarci, quando il Vangelo ci ricorda che Gesù ha amato i suoi fino alla fine, cioè fino a dare la sua vita concretamente. E poi però deve essere un amore veritiero, l'amore che non si nutre di reciprocità, che non si nutre di gratuità, di donazione fino in fondo, l'amore che ha paura, che torna indietro, l'amore che abbandona, l'amore che diventa possesso, che diventa dipendenza. Ecco, tutto questo non può portare alla felicità eterna. È così importante amare nella verità. E quando mi capita che qualcuno dei miei studenti venga un po' a raccontarmi le proprie pene d'amore, dico, ma scusa, ma perché non vi fate aiutare? Che abbiate 16, 18, 20 anni, non importa, fatevi aiutare facendo un bel percorso per entrare nel cuore dell'affettività, nella verità di una relazione d'amore secondo il progetto di Dio. Perché, scusate, perdete 6-7 mesi per prendere una patente, impiegate 800-1000 euro, ormai costa tantissimo, e tutto questo impegno per portare la macchina e per portare la vostra vita, no. Guidare la propria vita verso il compimento della vocazione dell'amore, no. Questo non vale la pena, non è sufficiente questo obiettivo per decidere di investire, no? di chiedere un aiuto. E poi attenzione, ancora il 2 gennaio del 2019, quando la Madonna dice amatevi gli uni gli altri, questa è la via per la vita eterna, ma in questo amarsi gli uni gli altri c'è quella reciprocità e quella donazione senza limite che solo Gesù è capace di insegnare quando dice non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Lui l'ha fatto fino in fondo, chiede a noi di fare la stessa cosa. Allora chiediamoci, dopo che ci siamo interrogati, no, su quanto sia breve la vita, abbiamo visto che siamo fatti per il paradiso e che proprio a Međugorje la Madonna ci esorta a camminare verso il cielo guidati dai nostri pastori. Abbiamo capito che senza Dio non c'è nessuna speranza di vita eterna, e adesso abbiamo visto come andare in paradiso, no? Accogliendo le croci, amando, invocando lo Spirito Santo, con l'aiuto dei cuori, no? Di Maria e di Gesù. E adesso però arriviamo a chiederci, ma che cos'è il paradiso? E ci sono dei messaggi molto belli della Madonna a tal proposito, quando dice ad esempio il 18 marzo del 95, la vita eterna è mio figlio. Questo è un messaggio molto bello, perché mi ricorda il buon ladrone, quando in croce si sente dire da Gesù, oggi sarai con me in paradiso. Ho sempre letto questa frase come se dicesse, oggi sarai con me, cioè in paradiso, come se Gesù dicesse al buon ladrone, guarda che essere con me, essere in paradiso. E una conferma di questa lettura sia dal fatto che il buon ladrone non chiede di scendere dalla croce, non chiede di essere salvato a colui che ha ormai riconosciuto come Dio, ma chiede di poter essere nel suo regno. Perché non chiede di scendere dalla croce? Perché lì vicino a lui sulla croce c'è Gesù. Allora se essere con Gesù è essere in paradiso, è ovvio che anche essere in croce con Gesù è come essere in paradiso. Ecco perché allora comprendiamo come la Madonna esorti ad accogliere le croci senza paura. E poi bisogna ricordarsi che questo paradiso è il dono che Gesù ci fa con la sua vita. Nel maggio 2012 la Madonna ci ha ricordati: mio figlio con la sua morte in croce ha mostrato quanto vi ama. Ha sacrificato se stesso per voi e per i vostri peccati. Non rifiutate il suo sacrificio. Non chiudete a voi stessi la porta del paradiso. Figli miei, non perdete tempo. Ecco, Gesù ci dona proprio questa possibilità di entrare nel cielo grazie al sacrificio della sua vita. Ancora il 18 marzo del 2018, quando la Madonna dice: sappiate che nessuna creatura che appartiene a Dio andrà perduta, ma vivrà in eterno. Ogni dolore ha la propria fine, e allora comincia la vita nella libertà, dove arrivano tutti i miei figli, dove tutto avrà una ricompensa. Che cos'è il paradiso? Il paradiso è il destino di chi appartiene a Dio. Che cos'è il paradiso? Una vita nella libertà, liberi dalla sofferenza, liberi dal dolore, liberi dall'egoismo, liberi dalla solitudine, liberi dalla morte, liberi dalla paura. E poi ancora ci ricorda che Gesù ha dato la sua vita affinché noi viviamo nell'eternità, è morto e risorto per ciascuno di voi. È bello questo essere consapevoli che la morte di Gesù è un dono per la salvezza di tutta l'umanità, di ogni uomo, ognuno è chiamato ad accoglierla, ma un dono che ci esorta alla responsabilità e che ci invita a testimoniare la vita eterna. Era il Natale del 1992 quando la Madonna diceva: infatti, cari figli, non dimenticate che la vostra vita non è vostra, ma un dono. Eh sì, chi di noi, cari amici, ha scelto di venire al mondo, di nascere? Nessuno. Non hanno chiesto il nostro permesso per farci nascere, siamo nati. La vita non è vostra, ma un dono, dice la Madonna, con il quale dovete dare gioia agli altri e guidarli verso la vita eterna. Ecco, la nostra vita deve essere questa testimonianza, che vedano, cari amici, che possiamo vivere come coloro che camminano verso il cielo e verso il paradiso. Un cielo che cominciamo a gustare già sulla terra, ecco, non è soltanto per i veggenti questa esperienza. Mi viene in mente il messaggio del 25 aprile del 2000, quando la Madonna dice: fate in modo che la preghiera diventi per voi un incontro gioioso con Dio, solo così la vostra vita avrà senso e contemplerete con gioia la vita eterna. La preghiera socchiude una porta. Ancora nel marzo 2008, cari figli, trascorrete più tempo possibile nella preghiera e nell'adorazione a Gesù nel Santissimo Sacramento dell'altare, affinché egli metta nei vostri cuori il desiderio della vita eterna. Tutto passa, figlioli, solo Dio rimane. La preghiera e l'adorazione sono queste le porte che aprono il desiderio della vita eterna, l'esperienza o quel gusto del cielo che tocca già la nostra vita terrena. E ancora, ecco, come poter concludere questa nostra conversazione se non con un messaggio, è quello del 2 luglio 2012, che ci ricorda come noi siamo in attesa della vita eterna, siamo fatti per il paradiso, ma si tratta di una decisione libera. Figli miei, di nuovo vi prego maternamente di fermarvi un momento e di riflettere su voi stessi e sulla transitorietà di questa vostra vita terrena. Quindi la Madonna maternamente ci prega di fermarci: fermati. Oggi si va di corsa da una parte, dall'altra, sempre impegni, lavoro, spostamenti e poi ipercomunicazione. Fermati un attimo, riflettete sulla transitorietà della vita terrena, quanto è breve, quanto è fuggevole questa vita terrena. Poi riflettete sull'eternità e sulla beatitudine eterna, no? Quindi da una parte la vita è breve, dall'altra ci aspetta l'eternità. Voi cosa desiderate? Per quale strada volete andare? E questo è chiaro, non basta una conoscenza teorica delle due alternative, è una strada da prendere. Vogliamo andare per la strada di chi crede solo nella vita terrena? Di chi pensa che nasciamo come animali, viviamo come animali, moriamo come animali e ci sperdiamo nella natura, nell'ambiente? O invece vogliamo scegliere la strada dell'eternità, della salvezza e del paradiso? E poi aggiunge la Madonna: l'amore del Padre mi manda, affinché con materno amore vi mostri la via che conduce alla purezza dell'anima, un'anima non appesantita dal peccato, un'anima che conoscerà l'eternità. voi siete miei figli, e io vi voglio tutti sulla via della salvezza, perciò, figli miei, radunatevi intorno a me affinché possa farvi conoscere l'amore di mio figlio e aprire così la porta della beatitudine eterna. Ecco, cari amici, il succo di tutto quello che ho cercato di condividere questa sera con voi attraverso i messaggi della Regina della Pace, l'idea che siamo fatti per il paradiso, ma che siamo come di fronte ad un bivio. Da una parte la dimensione terrena, dall'altra quella ultraterrena, da una parte la perdizione eterna, dall'altra la vita eterna, il paradiso, l'unione con Dio. La Madonna è qui per guidarci a questa via, ma soprattutto per conoscere l'amore di mio figlio, dice, e aprire così la porta della beatitudine eterna. Solo con Gesù c'è la felicità eterna. Allora, quando ci sentiamo dire dalla Madonna vi aspetta la vita eterna, sappiamo, cari amici, che non ci aspetta come qualcosa di automatico, ma è un'eternità che chiede una decisione per Dio, per la vita eterna, per la felicità del paradiso. Adesso facciamo una breve pausa e poi ci ritroviamo con le vostre domande. A tra poco. Pronto? Pronto. Buonasera, professor Manetti. Buonasera. Io la chiamo per chiederle una gentilezza, una cortesia, un'informazione. Ecco, volevo chiederle Da dove chiama, signora? Da Gorizia. Volevo chiederle questo. Quando una persona, ad esempio mio marito è morto a 93 anni, no? Però gli ultimi anni praticamente non era... cioè non ci stava molto con la testa, diciamo, capisce? Queste persone qui, io quando gli sono stata vicino, cioè lo accudivo tutto quanto negli ultimi anni praticamente, e ogni sera io, dopo averlo preparato per metterlo a letto, dopo averlo spogliato, cambiato eccetera, mi ginocchiavo anzi vicino a lui e cercavo di pregare con lui e di fargli ripetere le preghiere dietro di me. Lui le ripeteva. Però questo volevo dirle, che non è riuscito, comunque non si è confessato, ecco, questo volevo chiederle, volevo dirle. Grazie, allora grazie per questa domanda, che mi permette di cogliere la situazione in generale e provare a rispondere nel particolare. Allora, intanto in generale, per le persone che hanno problemi legati allo stato di coscienza, problematiche di tipo cognitivo, no? La senilità, l'Alzheimer, quando uno si chiede ma con così poca consapevolezza, a volte mi sento dire in maniera proprio diretta, ma a cosa serve un tempo di vita trascorso così? Beh, dico serve perché nel fondo dell'anima Dio continua a intessere un dialogo profondissimo. Ricordo una volta un caro amico che aveva avuto una vittima, no? In famiglia, il suocero con un incidente grave sul lavoro ed era stato in coma 2 settimane prima di morire e mi diceva ma cosa serve stare 2 settimane in coma, ma non poteva morire subito. E dico guarda, tu non puoi sapere in quelle 2 settimane Dio che cosa ha operato. Quindi la prima cosa che dico di ordine generalissimo, noi non conosciamo quello che Dio opera nel cuore delle persone e facciamo attenzione perché quello che può essere danneggiato a livello cerebrale non tocca l'intelletto o la volontà, che sono invece facoltà dell'anima. E poi sul secondo punto, non si è confessato, qui bisogna capire la situazione, se non c'è stato il tempo per farlo, o se date le condizioni, diciamo così, legate a uno stato di semi-incoscienza, come dire, non potrà neanche capire quello che gli viene detto. Ma qui dobbiamo proprio affidarci alla Divina Misericordia. Intanto presumere che se avesse potuto si sarebbe confessato, perché immagino da quello che mi ha detto questa nostra ascoltatrice che ci fosse un cammino di fede condiviso, perché si era abituata a inginocchiarsi ai piedi del letto e pregare insieme, l'avranno fatto anche prima. E poi sapere che se in qualunque caso, questo lo dico per chi è all'ascolto e avesse magari ecco casi simili, e magari ci sono a volte tanti dubbi che tormentano la coscienza, ma mio padre, mia madre, mio nonno non è riuscito a confessarsi. Guarda, quello che è assolutamente necessario è il pentimento del cuore. Se per qualche motivo non è stato possibile, non bisogna mai disperare. È come sempre affidarsi alla Divina Misericordia e ovviamente in coscienza non avere nulla da rimproverarsi, aver cercato di fare tutto il possibile per portare i sacramenti, che sono proprio un beneficio grandissimo per chi riesce ad accoglierli. Ma se non si è riusciti, per condizioni legate alla salute del paziente, per mancanza di tempo, altre circostanze, mai, mai disperare. Pronto? Buonasera, io sono Antonio e chiamo da Modena. Gli faccio i complimenti per la trasmissione. Grazie. Ascolti, grazie io a Dio. Ti volevo chiedere, io 2 anni fa ho perso mio padre, a 68 anni, è una brutta malattia, mio padre ha avuto fede sempre nel Signore, nella Madonna, sempre. Io mi ricordo un uomo di quasi 100 kg e l'ho ritrovato di 35 kg sul letto, buttato sul letto, morente. E sempre l'ultimo sospiro, sempre pregando al Signore, come lo sto pregando io. Purtroppo gli devo dire soltanto una cosa, che sto vedendo su questa terra troppo cattiveria, sto pregando notte e giorno, perché ancora ho 47 anni, devo fare 48, che questo mondo bisogna che cambi. Sto pregando solo per questo. Ok, gli auguro una buona notte, grazie e prego il Signore sempre. Grazie a Dio per questa tua testimonianza, che in realtà è perfettamente integrata. Intanto ti sono vicino nel ricordo, nella preghiera per il tuo papà, però poi dico anche, preghiamo perché ci sia meno cattiveria, preghiamo perché il cuore dell'uomo sia meno schiavo delle tentazioni e delle seduzioni del male, sapendo che il maligno tenta l'uomo, soprattutto quando si avvicina alla fine di questo pellegrinaggio terreno che è la vita, perché vuole che l'anima si perda, che uno si disperi, che bestemmi, che maledica Dio. Proprio quello è il momento decisivo in cui dobbiamo riconfermare la nostra fede. Ricordo sempre la testimonianza che mi diede un esorcista, raccontandomi come durante una preghiera molto intensa, a un certo punto invocava l'aiuto dei santi per liberare quell'ossessa dal potere del demonio, e li snocciolava uno dopo l'altro, sembravano non fare nessun effetto, ma quando ha invocato Beata Chiara Luce Badano c'è stato proprio uno scompiglio, urla, bestemmie, e questo indemoniato che dava proprio voce alla violenza, alla rabbia di Satana, che ha dato testimonianza dicendo che fino all'ultimo aveva tentato Chiara Luce. Sapete, cari amici, che la Beata del Sassello ha passato 2 anni praticamente a letto, malata, è morta ad appena 19 anni, e possiamo dire che il sorriso era la sua lettura più bella della malattia così atroce che l'ha colpita e l'ha portata a morte prematura, ma possiamo anche dire che ha avuto battaglie spirituali fortissime. Il demonio diceva in questo esorcismo: io ero vicino a lei per tentarla, per dirle vieni con me, ribellati, maledici questa vita, e lei diceva sempre di sì a Gesù. Ecco, questo mi colpisce, perché le battaglie alla fine della vita sono proprio quei sacrifici grandi, quelle offerte luminose che possono portare conversione nel cuore di chi è lontano. Quindi la sofferenza di una malattia portata con pazienza, la lotta spirituale, il confermarsi nella fede, offrire la propria immobilità, il non poter più vivere come si viveva prima, ecco, anziché far finta di nulla, dire guarda Signore, ti offro anche oggi questa giornata in cui non riuscirò a fare scusate, tutto quello che avrei voluto come una volta. Questo permette di avvicinare i cuori a Dio. Ecco perché mentre preghiamo perché venga meno questa cattiveria nel mondo, impariamo anche a offrire la sofferenza. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, professor Monenti. Senta, io sono un po' angosciato a fare questa domanda perché non vorrei essere irriverente, ma però mi permetta di esternare le mie perplessità sul problema dell'autoesclusione. Io non credo, faccio fatica, ecco, a pensare che uno sia talmente masochista di volersi andare a mettere nel fuoco eterno volontariamente. Ecco, perché, e poi perché liberare Dio da questo problema? Lui ha creato l'inferno, lui ci giudica e anche castiga, e però che si dia poi la responsabilità a noi che sbagliamo oppure che non crediamo in questa esclusione. Ecco, forse sono nel dolo a dire questo. Mi scusi e la saluto. Buonasera. No. Grazie per questa domanda, invece, perché è utile per precisare come si debbano tenere insieme i due aspetti per essere proprio così corretti nel presentare la dottrina della Chiesa Cattolica. A volte nell'inserire alcune affermazioni in un contesto più complesso o in un tema che magari non è specificamente legato a quanto rilevato da questo nostro ascoltatore, è facile magari presentare soltanto una parte dell'insegnamento dando per scontato che tutto sia chiaro, ma è una domanda che permette invece di richiamare l'oggetto, no? Come dire, ma è possibile che l'inferno sia imputabile all'autoesclusione, a una scelta libera dell'uomo? Ma chi sarebbe così folle da voler andare all'inferno? Ricordiamoci che invece è Dio che giudica. Ecco, non è un invece, non è un out. La prospettiva cattolica mette sempre insieme tutto. Certo, chi giudica è Dio, anzi, a voler essere precisi, è Gesù che giudica. Gesù si presenta, soprattutto nel Vangelo di Giovanni, in modo esplicito, come colui che ha ricevuto questo potere di giudizio dal Padre. È naturale, direi, normale che chi possa giudicare in modo più opportuno è proprio Gesù, perché Gesù è vero Dio e vero uomo. Allora, in quanto vero Dio, ha piena potestà di giudizio, in quanto vero uomo è il più titolato a giudicare quell'uomo di cui ha assunto la natura. Però, al tempo stesso, è vero che non è Dio che manda all'inferno, quasi come se fosse arbitraria la cosa, ma è l'uomo che si autoesclude dalla comunione con Dio, è l'uomo che è responsabile, è l'uomo che liberamente sceglie di rifiutare Dio. Attenti, qui basta un semplice esempio che traggo dalla vita scolastica per comprendere la verità di quanto appena detto. Certo che è l'insegnante che boccia lo studente a fine anno, ma è lo studente che ha scelto di autoescludersi dalla promozione non studiando a sufficienza. Allora, formalmente, legalmente, giudiziariamente è l'insegnante che giudica e boccia, certo, ma la responsabilità ultima, la scelta, è dello studente. Attenti bene, lo studente non è che sceglie di farsi bocciare, sceglie di non studiare. Analogamente risolviamo allora la controversia sul ma chi sceglierebbe di andare all'inferno, ma se uno vedesse l'inferno non ci vorrebbe andare, ma il problema è che la scelta libera riguarda il dire io rifiuto Dio, e Dio ci ha parlato dell'inferno, sì, in Gesù, nel Vangelo ne parla in tanti modi, ne parla con la metafora della Geenna, del fuoco eterno, ne parla come di una maledizione, di un vermo, di un fuoco che non smetterà mai di divorare coloro che ne rimangono vittime. Alcuni hanno visto l'inferno, sì, penso ad esempio ai veggenti di Fatima, penso a loro perché la piccola Giacinta, dopo questa terribile visione, disse a Lucia, chiedi alla Madonna di far vedere l'inferno a tutti i peccatori. E Lucia le disse, perché mai? Perché se tutti i peccatori vedessero l'inferno non peccherebbero più. Certo, chi sceglierebbe l'inferno sapendo esattamente com'è? Nessuno. Ma l'uomo deve vivere, amare, corrispondere liberamente alla chiamata dell'amore di Dio nella fede. E quindi noi dobbiamo credere a quello che ci è stato insegnato. Ci è stato dato di credere che c'è l'inferno, come ci è stato dato di credere nel paradiso. Se potessimo sperimentare il paradiso, ma chi oserebbe rinunciarvi per un po' di gioie terrene? Se potessimo vedere l'inferno, chi lo sceglierebbe? Ma noi dobbiamo scegliere per Dio, in base a quella che è la conoscenza che ci permette, sapendo, come ci insegna il Catechismo, dai numeri 1033 e 1037, che raccomando come lettura per un approfondimento di quanto appena detto, che proprio questo è l'inferno. Un atto conseguente, uno stato conseguente alla scelta dell'uomo che rifiuta l'amore di Dio. Disposizione, ringrazio la regia che mi tiene anche sotto controllo l'orologio, mi dispiace, ecco, per chi avesse ancora avuto il desiderio di porre domande, ricordo però che è sempre possibile scrivermi anche tramite Facebook, o l'email che è pubblica, per cui volentieri ricevo le domande degli ascoltatori, sia per rispondere in forma privata, sia per farne poi oggetto di approfondimento nelle trasmissioni successive. Con questo colgo l'occasione per ringraziare proprio tutti voi, cari amici radioascoltatori, che mi sostenete lungo questo percorso mensile, mi date provocazioni anche importanti con le domande, suggerimenti utili per le diverse tematiche in questo percorso che tratta dell'oltre, della vita dopo la morte, chiedendovi di pregare in modo particolare per il Santo Padre, per i nostri pastori, e assicurando la preghiera a tutti, in modo particolare ai malati, ringraziando ancora la regia, auguro a tutti una santa notte e vi do appuntamento al prossimo primo sabato del mese. Un cordiale saluto a tutti da parte di Diego Manetti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.